Benvenuti a tutti, puntata numero 29 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Finali NBA praticamente al giro di boa, o quantomeno resoconto di potenziale metà finals, visto che sono state giocate in tre partite che, praticamente è un dato di fatto, un po' tutto il mondo ad oggi non scommetterebbe un eurino sull'epilogo da me pronosticato la settimana scorsa, cioè serie risolvibile in sette partite tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. In questo momento, dopo la vittoria clamorosa di stanotte, visto che sto registrando ed è giovedì pomeriggio, Golden State è in vantaggio per 3-0 nella serie. Questo significa che la prossima partita, quella di venerdì notte alla Quick Loans Arena, è quella del potenziale sweep e del secondo potenziale titolo in tre anni per la squadra allenata da Steve Kerr. Nessuno, infatti, nella storia della Lega è mai risorto da uno 0-3 in finale. Se vogliamo scomodare i record, potremmo parlare di quella che al momento è una marcia pari a 15 vittorie e 0 sconfitte per Golden State, ricordandoci di quei Philadelphia 76ers del 1981, quelli con Dr. J e Moses Malone, capaci di vincere il titolo con una sola sconfitta in quell'edizione dei playoffs, che se la memoria non mi inganna è il record assoluto che può essere frantumato con una eventuale post-season senza conoscere sconfitta per Curry e compagni. Ma andiamo con ordine. Le prime due gare all'Oracle Arena a Oakland si sono svolte e concluse nel segno dei Golden State Warriors, tanto che dopo le stesse gran parte degli osservatori si sono subito messi a discutere proprio della possibilità che la serie si potesse chiudere con uno sweep o meno, vista l'apparente disparità di valori apparsa in soldoni tra le due squadre. Come forse saprete, ci siamo divertiti a scrivere un live post per ognuna delle gare di finale giocate fino ad oggi, che potrete trovare e ritrovare sul nostro blog medium.com/NBAweek, con riferimento anche sulla nostra pagina Facebook. Questo per dire che la cronaca, anche a livello di analisi ed impressioni sul momento delle tre partite di Finals, esiste già, e non la ripeteremo ovviamente in questo podcast, anche perché arrivati a questo punto dell'anno, chiunque decida di ascoltarmi ha sicuramente imparato a memoria le sfide già venute in finale, le azioni salienti, le statistiche ed i risultati di quello che dovrebbe essere il momento più importante della stagione NBA. Proviamo qui invece ad analizzare genericamente quello che abbiamo visto fino ad ora, iniziando appunto dalle prime due sfide di Oakland, vinte dalla squadra di casa entrambe in modo piuttosto netto, come già detto. È innegabile che Cleveland abbia dimostrato di poter reggere alla sfuriata Warriors per appena due quarti, finendo di fatto la benzina in entrambe le partite alla ripresa del secondo tempo e quindi non riuscendo ad opporsi alla tipica sfuriata del terzo periodo di Curry e compagni. Per la verità dobbiamo ammettere che i campioni della Western Conference sono potenzialmente una delle squadre più letali di sempre quando offensivamente girano in contemporanea le due superstar a loro disposizione, Steph Curry, appunto, e Kevin Durant, e contemporaneamente l'aggressività difensiva produce recuperi e conseguenziali punti in transizione. In gara 1 Cleveland non ha saputo trovare soluzione a questo sistema, difendendosi male dalle transizioni degli Warriors, spesso capendoci onestamente poco, tanto che più di una volta Durant si è trovato corridoi liberissimi all'interno dei quali inserirsi senza problemi, chiudendo in schiacciate solitarie. Contemporaneamente la statistica principe che riassume la prima partita è relativa alla disparità tra le due squadre in materia di palle perse e palle recuperate. Cleveland perde infatti 20 palloni di squadra con il particolare di 8 palle perse del solo LeBron James, ne recupera 0. Golden State perde solo 4 palloni di squadra e ne recupera 12. I 31 assist totali degli Warriors mostrano ulteriormente il successo della loro espressione di gioco migliore, difesa aggressiva, recuperi e transizioni quando possibile, generalmente molti passaggi rapidi e molto movimento senza palla alla ricerca della soluzione ottimale. Di contro, il movimento senza palla dei giocatori attorno a LeBron James è stato il problema principale dei Cavaliers in gara 1, ovviamente a parte le palle perse. James ha chiuso comunque con 8 assist, ma si è trovato spesso e volentieri a provare ad accendere compagni mal posizionati con conseguente carico elevato personale di palle perse. Come detto, il terzo quarto finisce 33-20 per Golden State, che di fatto sfugge qui. I Cavaliers sbagliano tantissimo anche da sotto, pur non soccombendo di troppo a livello di triple messe a segno. 11-12 le triple totali a vantaggio dei Golden State Warriors. Golden State non ha una grandissima serata al tiro per Klay Thompson e Draymond Green, per quanto i due si rivelino pedine fondamentali nel lato difensivo del campo. In particolare un Klay Thompson offensivamente deludente, con percentuali pessime, si dimostra comunque decisivo laddove è meno visibile o comunque meno appariscente. Durant gioca da MVP sbagliando praticamente niente. Curry determina i parziali decisivi con le sue giocate, i suoi tiri da tre punti soprattutto. Difficile resistere a questi Warriors, ma gli accorgimenti da fare per i Cavs sono tanti e palesi, per cui la speranza di una Cleveland diversa in gara 2, magari capace di provare ad impattare la serie sull'1-1, resisteva ancora, anche se già in molti iniziavano a sentenziare che non c'era niente da fare e che quest'anno i Warriors erano nettamente più forti. In gara 2 i Cavaliers devono scontrarsi di nuovo con una squadra che stavolta, malgrado i problemi di falli di Draymond Green causati da una modifica sull'impostazione di gioco piuttosto palese da parte di LeBron e compagni, ritrova anche offensivamente Klay Thompson, che tira con percentuali importanti e diventa il giocatore chiave per il risultato finale. La modifica principale appena citata riguarda un LeBron che nei primi due quarti attacca con aggressività il ferro, non considerando assolutamente l'opzione perimetrale tra le sue scelte offensive. Draymond Green si carica così di falli, James spende tantissimo, ma Cleveland chiude in contatto ancora una volta i primi due quarti, riuscendo anche a tamponare un primo tentativo di parziale degli Warriors nel secondo quarto. Il problema delle palle perse appare risolto, o quantomeno i Cavaliers dimostrano un'attenzione diversa dal punto di vista dell'impostazione di gioco. Chiudono con 9 palle perse e 15 recuperi, in controtendenza totale rispetto a gara 1. Golden State invece ne perde molte di più, si tratta di 20 palle perse per appena 5 recuperi. La statistica che sembrava aver determinato la prima partita si ribalta, ma non sarà stavolta decisiva. Questo perché stavolta sono le percentuali da dietro l'arco a pesare notevolmente sul risultato finale. Gli Warriors chiudono con 18 triple di squadra messe a segno, 4 a testa per Curry, Durant e Thompson, che dei 3 è quello che comunque tira meglio. Cleveland conclude con un pessimo 8 su 29 da dietro l'arco, evidenziando così un secondo limite che risulta decisivo. Inutile aver costruito una squadra di tiratori puri capaci di sfruttare gli scarichi di James e Irving durante le loro penetrazioni, che inevitabilmente attirano raddoppi e generano rotazioni, quando sugli scarichi stessi i tiratori non la mettono praticamente mai. James chiude in tripla doppia gara 2, giocando un'altra partita strepitosa, impossibilitato a determinare l'inserimento dei compagni laddove le percentuali di tiro sono pessime. Accanto a lui si vede solo un buon Kevin Love, perché anche Kyrie Irving tira male con 8 su 23. La totale inesistenza per la seconda partita consecutiva di Tristan Thompson e J.R. Smith, che è assolutamente il peggiore del campo, non aiutano la squadra, soprattutto ad evitare l'ennesima imbarcata nel terzo periodo, che si conclude 24-35 per Golden State. LeBron cambia nettamente atteggiamento nella seconda metà di partita, prediligendo maggiormente le soluzioni perimetrali rispetto agli attacchi in penetrazione della prima frazione. La domanda a questo punto è: si tratta di una scelta programmata oppure di una risposta alla stanchezza che inevitabilmente gli può essere sopraggiunta? In effetti King James sembra soffrire l'eccesso di energie spese e la partita scivola via sotto le frustate di un Kevin Durant ancora una volta sugli scudi. Steph Curry segna anche in questa partita le triple che seppelliscono gli avversari e chiude, come LeBron tra l'altro, con una clamorosa tripla doppia. In realtà la sua gara 2 è a mio avviso inferiore rispetto all'essenzialità decisiva della prima sfida, considerando che comunque chiude con un 7 su 17 dal campo e 8 palle perse. Ma tutto il resto è più che sufficiente per andare a Cleveland forti di un 2-0 nella serie, la 14ª vittoria consecutiva degli Warriors in questi playoff senza aver mai conosciuto sconfitta. A questo punto ci troviamo esattamente nella stessa condizione dello scorso anno. Cleveland sconfitta per due volte ed in modo piuttosto netto in due partite ad Oakland. Niente, quindi, in linea teorica sembrerebbe perduto, a maggior ragione considerando la tripla doppia di media di un James che ha bisogno di un coinvolgimento differente da parte dei compagni di squadra, augurandosi che questi si possano sentire rinfrancati dalla spinta del pubblico amico. Golden State imposta la partita in modo molto intelligente, non detta stavolta il ritmo della partita in avvio, ma cerca di mantenersi in scia, pronta a piazzare i proverbiali parzialoni favoriti da un'eventuale serata positiva di tiro da dietro l'arco. Cleveland deve tamponare questa situazione che inevitabilmente risulta palese già dal primo quarto, e ci prova attraverso un'impostazione difensiva piuttosto aggressiva, soprattutto sotto canestro, che favorisce un discreto numero di recuperi e anche di anticipi di conseguenza. O meglio, un discreto numero di anticipi e recuperi di conseguenza. Nel primo quarto Golden State segna 9 triple su 14 tentativi, con un Klay Thompson offensivamente ispiratissimo e con una sfuriata di Curry nel finale che favorisce un vantaggio conclusivo di 8 lunghezze, con un rapidissimo parziale di 10-0 negli ultimissimi minuti. James giocherà un primo tempo stellare, un primo tempo da dominatore assoluto, e con lui piano piano si accende anche un Kyrie Irving che raggiungerà il suo apice realizzativo nella seconda metà di partita, quella più temuta dai Cavs, quella in cui nelle prime due gare della serie si è palesato un calo fisico e mentale che ha sempre favorito lo strappo decisivo per Golden State. Non sarà così in questa gara 3, con il secondo quarto difficile di una Cleveland che deve psicologicamente far fronte proprio al piccolo Steph Curry e al suo stile di gioco. Quando appare più sonnacchioso è esattamente quando frusta la partita con i suoi tiri da dietro l'arco, potenzialmente quindi i parziali si aprono, che è una meraviglia, e serve veramente un super LeBron per evitare che il vantaggio di metà tempo degli Warriors sia troppo profondo. Golden State si dimostra eccessivamente fallosa però, e quindi anche sofferente le incursioni personali di James e Irving, con 14 falli di squadra alla pausa di metà gara. Contemporaneamente soffre anche la pressione difensiva di Cleveland perdendo 12 palloni, ma come straordinariamente accaduto durante tutta la serie, vince il confronto di squadra a rimbalzo, oltre che negli assist totali, ma questo è scontato ed inevitabile considerando quanto Cleveland si aggrappi alle iniziative personali delle sue due stelle e come male stia tirando da dietro l'arco. Inoltre, Golden State domina anche il raffronto sui canestri da tre realizzati, 12-5 alla fine del primo tempo. Nel terzo quarto la situazione apparentemente cambia e stavolta si ribalta rispetto alle due gare precedenti. Cleveland si rafforza al rimbalzo grazie all'apporto di uno strepitoso Kevin Love sotto i tabelloni, un Kevin Love che tirerà male, ma il gioco sporco della partita da parte dei Cavaliers è tutto il suo. Kyrie Irving si scatena facendo di fatto rifiatare LeBron James, Draymond Green si carica di falli e si innervosisce, si inserisce anche Kyle Korver per Cleveland con un paio di triple and catch and shoot fondamentali. I Cavaliers concludono in vantaggio e sembra essere la volta buona nella serie per loro. Indubbiamente è la prima dei tre partite che comunque entra nel quarto periodo con un risultato in bilico. Non abbiamo citato fino ad ora la prestazione in gara 3 di Kevin Durant. E sapete perché? Perché Kevin Durant al solito realizza i suoi punti giocando in modo onesto ma poco appariscente per i primi tre quarti. È killer silenzioso, fondamentale per mantenere i suoi in scia, ma le sue conclusioni sono meno appariscenti, principalmente per i momenti in cui arrivano, di quelle ad esempio di Klay Thompson e Steph Curry. Fino agli ultimi minuti di partita Durant gioca un match onestissimo dal grandissimo giocatore che è, negli ultimi tre minuti invece gioca da MVP assoluto della serie. LeBron e Irving combineranno alla fine per 77 punti totali, rispettivamente 39 e 38 a testa. James arriverà ad un solo assist dalla tripla doppia. Stavolta i due vengono coadiuvati offensivamente anche da un J.R. Smith da 5 triple, dagli 8 punti del già detto Korver proveniente dalla panchina e da, appunto, un Kevin Love da 13 rimbalzi e 6 recuperi totali a fine della gara. Ma Cleveland non riesce a chiudere la partita quando di fatto basterebbe pochissimo, quando effettivamente per loro potrebbe già apparire il miraggio del 2-1 nella serie. Ed infatti è qui, in questi momenti, che si vedono le grandi squadre composte da grandissimi giocatori. Steph Curry chiuderà il suo match con 26 punti, 6 assist e la bellezza di 13 rimbalzi, di cui 5 offensivi. È il miglior rimbalzista di squadra, una statistica incredibile. Segna anche 5 triple, una in meno di un Klay Thompson fantastico, che chiude la sua partita con 30 punti. Dalla panchina, sempre per Golden State, Andre Iguodala gioca splendidamente per quel che serve. Chiuderà con 7 punti, ma 5 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi e soprattutto una stoppata. Una stoppata che sarà decisiva. Negli ultimi minuti di partita, quelli in cui i Cavaliers dovrebbero chiudere la gara, Golden State srotola un parziale di 11-0, vincendo poi l'ultimo periodo per 29-19, e Durant è semplicemente eroico. Dopo una tripla di J.R. Smith che sembra poter dare sicurezza alla squadra di casa, Durant segna 7 punti consecutivi, con la tripla del controsorpasso che psicologicamente distrugge i Cavaliers e i seguenti liberi del più 3 a 12 secondi dalla fine. Kevin Durant chiuderà questa partita con 31 punti, la sua ennesima prova magistrale. A questo punto la stagione di Cleveland è appesa ad un'ultima azione: o segnano da tre impattando o si va metaforicamente tutti a casa. Basterebbe un fallo sistematico di Golden State per neutralizzare i piani, ma come ben sappiamo l'NBA ha delle regole deontologiche precise per le quali in situazioni analoghe la partita si gioca faccia a faccia. Rimessa quindi nelle mani di LeBron James, che lavora contro Andre Iguodala. È qui che si consuma la vendetta del giocatore degli Warriors, vittima di quella famosissima stoppata, la chase down di gara 7 dello scorso anno, che di fatto è diventata il simbolo della vittoria di Cleveland l'anno passato, come già detto. Iguodala difende in modo divino e stoppa il tiro di LeBron. A questo punto, game, set, match e probabilmente serie per Golden State, che si porta così sul 3-0 nella serie stessa, vincendo in trasferta per 118-113. Sensazionale dimostrazione di compattezza e concentrazione, oltre al talento infinito che ben conosciamo, della squadra che inevitabilmente sta risultando la più forte di questa stagione e di questa finale. Adesso, dopo gara 3, lo possiamo ampiamente dire, ed io posso cospargermi tra l'altro la testa di cenere per aver clamorosamente cannato il mio pronostico per questa serie la puntata precedente. Gara 4, come detto, diventa potenzialmente l'ultima gara della stagione, anche se Cleveland proverà a vender cara la pelle in casa quantomeno per mantenere un minimo di dignità ed evitare lo sweep. La nostra puntata numero 30, quella della settimana prossima, rischia quindi seriamente di essere la ultima della nostra stagione qui su Radio Big World. L'appuntamento quindi è rinnovato per venerdì prossimo alle 21.30 sul flusso streaming di Radio Big World, dalla mattina dopo in podcast sempre nel SoundCloud di Radio Big World e su YouTube nel canale di Belli13. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana con NBA Week.